Germania di vendetta. L'uomo riprende i suoi dritti, e il cor che sanguina, oh, il sangue ardente. Tu viscere non hai, solleggia il sole.